Italia in controluce. È il 4 ottobre, 12 anni fa nasceva Radio 24 e 12 anni dopo Italia in controluce, come tutti i programmi lo ricordano, in conduzione Daniele Biacchessi. Popolo delle Libertà e Partito Democratico travolti dalle inchieste e dalle polemiche, inchieste sul malaffare nelle regioni Lazio e Lombardia che stanno sgretolando l'ex partito di maggioranza, cioè il Popolo delle Libertà, tanto che il suo leader Silvio Berlusconi non si riconosce neppure più in quel progetto politico. Intanto cosa accade sull'altro fronte? Intanto il PD sceglie il futuro del centro-sinistra attraverso le primarie, ma si scontra sul tema delle regole. Allora io saluto innanzitutto Mario Secchi, che è direttore responsabile del quotidiano Buongiorno, Il Tempo. Daniele. Buongiorno, resti con noi. Vi ricordo i messaggi SMS 349-238-6666. Cosa pensate di questa crisi del Popolo e Libertà e cosa pensate anche di quello che sta accadendo all'interno del PD, dove Renzi contro Bersani, Bersani contro Renzi, tutti contro tutti. Insomma, vince poi l'antipolitica, ma non è cosa buona l'antipolitica, non ha mai portato a mio avviso a nulla di buono. Non so se poi è d'accordo Mario Secchi, è d'accordo con questa affermazione? Antipolitica non è la proposta, è la protesta. Devo anche dire che quello visto finora in campo dai partiti non è neanche quella una proposta. Non è un bello spettacolo. Allora, no. Sentiamo Anna Marino in diretta. Buongiorno Anna. Buongiorno Daniele, buongiorno Mario Secchi, buongiorno agli buongiorno. Ascoltatori. PD e PDL sono travolti non solo dalle inchieste e dalle polemiche, ma anche dai molti nodi ancora irrisolti. Sul fronte del PD riguardano principalmente la bozza sulle regole delle primarie di centrosinistra, che sarà sottoposta all'assemblea del PD di sabato e crea screzi tra Pierluigi Bersani e il suo maggior competitor, cioè il sindaco di Firenze Matteo Renzi, che richiama le regole precedenti, quelle già utilizzate per eleggere Prodi, Veltroni e lo stesso Bersani. I punti: l'assemblea di sabato dovrà votare in primis la deroga statutaria che permetterà a Renzi e alle altre personalità del PD di candidarsi alle primarie. Lo statuto infatti prevede che in caso di primarie di coalizione è il segretario il candidato naturale del PD. Poi la questione doppio turno, che scatterà se nessun candidato avrà preso il 50% dei voti e non il 40% come pure si era pensato inizialmente e come vorrebbero i renziani. Altro punto è il registro degli elettori di centrosinistra, una pubblica dichiarazione di appartenenza ad un'area politica. Ma il vero punto chiave è il voto o meno al secondo turno per chi non ha votato al primo. La bozza prevede infatti la possibilità di iscriversi nel registro da una settimana prima fino al momento del voto al primo turno. Chi non ha votato il 25 novembre non potrà più presentarsi al seggio per il 2 dicembre. Sul fronte PDL si parla anche qui di caos. Anche dopo una giornata di riunioni ufficiali e non, culminata in un vertice con Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli, nulla è deciso, tutto è ancora in gioco. Perché non è solo il nodo degli ex AN a tormentare il partito del PDL, ma anche gli scricchioli di regioni importanti guidate appunto dal PDL che appaiono in bilico. Poi l'annuncio dell'ex ministro dell'economia Giulio Tremonti che correrà alle prossime politiche con una sua lista, senza trascurare il braccio di ferro sulla legge elettorale e il dubbio sulla ricandidatura di Berlusconi. Su entrambi i piatti dei partiti gli ingredienti su cui discutere sono abbondanti. E ieri c'è stato il vertice a Palazzo Grazioli. Partiamo dal nostro racconto dal Popolo e Libertà. Il presidente dei senatori Gaetano Quagliariello, che ha sentito poco fa Anna Marino. Il partito deve rispondere ai fatti che hanno riguardato la politica e che lo hanno riguardato in prima persona. Io credo che la risposta non possa prescindere da una assunzione di responsabilità e anche da una critica senza se e senza ma nei confronti di alcuni comportamenti personali. Dal punto di vista politico è necessario un rinnovamento profondissimo delle strutture e soprattutto quello che è ancora più importante è che a livello politico ci sia subito un programma e una strategia per unire tutto il centrodestra, per unire su un programma di rinnovamento coloro i quali in Italia non vogliono che il paese venga lasciato nelle mani della sinistra. Allora, alcuni sms. Andrea da Rimini dice che Berlusconi sta raccogliendo quello che ha seminato. Un altro ascoltatore dice che Renzi ha minacciato di rottamare il grande boss, cioè Massimo D'Alema, e avrebbe firmato sostanzialmente la sua condanna a morte. Ma qua vediamo anche un po', sono molti, moltissimi i nostri ascoltatori che ci vogliono raccontare quello che pensano della politica italiana, soprattutto della situazione di questi due grandi partiti, di quelli che sono stati fino ad oggi il Popolo della Libertà e il Partito Democratico. 349-238-6666, mi raccomando, sms brevi e soprattutto firmati, altrimenti io non li racconto. Allora, Secchi, da dove parte questa crisi del Popolo della Libertà? È solo una questione di inchieste, di malaffare del Lazio, oppure è crollato il progetto politico? Ma intanto il progetto politico nasce, quello del PDL, parliamo, sulla scia del progetto del Partito Democratico. Vi era il tentativo di dare una doppia risposta. Il PDL nasce da una parte col tentativo di Berlusconi di rispondere alla crisi di rapporti che c'era con l'Alleanza Nazionale, tra Forza Italia e Alleanza Nazionale, e dall'altro sulla spinta della costituzione del Partito Democratico, che oggettivamente era una novità nel campo politico italiano. Quindi diciamo questi due fattori hanno contribuito in maniera decisiva alla creazione di quel partito. Ecco, sai che un ascoltatore dice che il Popolo della Libertà è andato in crisi quando ha cominciato a perdere il potere, ed era il potere che gli faceva rimanere uniti. Beh, come sanno tutti, il potere è un grande fattore di aggregazione, no? E non ci sono dubbi che è più facile stare uniti quando si è nella stanza dei bottoni, quindi questa osservazione la trovo certamente corretta, però non basta questo a spiegare l'implosione alla quale stiamo assistendo, ed è un'implosione politica molto grave, perché si vede un'assenza di proposta totale, una leadership che non è più quella di un tempo, parlo di Berlusconi, ma il cui declino era abbastanza logico, se vogliamo, cioè una parabola politica che dura da 20 anni non può essere sempre sulla breccia. A questo poi hanno contribuito ovviamente l'assenza di democrazia nel PDL, dovuta al fatto che è un Berlusconi un po' dittatoriale, come qualcuno dice. Ma più che altro noi dobbiamo guardare tutto questo sempre nella genesi del partito. Quello è un partito carismatico che non è riuscito a trasformarsi in un partito democratico, che è una cosa diversa. Ecco, allora Secchi, andiamo sul fronte del PD, perché anche lì ci sono parecchie grane. Stando ai sondaggi, il PD dovrebbe essere il primo partito, ma sta scegliendo la sua leadership con grandi problemi. Davide Zoggia è della segreteria di Pierluigi Bersani, al microfono di Anna Marino. È la persona o una delle persone che sta realizzando quelle che vengono chiamate regole. Intanto un ascoltatore ci dice che Renzi è l'unica vera novità del panorama politico e che tutti i gruppi stanno implodendo, tutti i gruppi politici stanno implodendo per Corrado da Como, e perché dell'assenza della politica un domani ne risentiremo tutti. Sentiamo Zoggia. Francamente si fa un po' fatica a comprendere, perché per quanto riguarda la prescrizione, che tra l'altro può essere fatta anche il giorno stesso in cui si tengono le primarie, questa è una modalità di garanzia per tutti, perché noi vogliamo che l'elettore che viene a votare le primarie assuma una responsabilità nei confronti, diciamo, del centro-sinistra, non soltanto il giorno in cui voterà liberamente per il proprio candidato alle primarie, ma anche il giorno in cui ci saranno le elezioni vere e proprie. C'è anche un'apertura verso eventuali impedimenti? Ci sono motivazioni, diciamo, chiare e giustificate. Faccio un esempio, un elettore in viaggio di studio o è impossibilitato a votare il primo turno per varie ragioni, è evidente che potrà votare il secondo turno anche se non ha votato il primo, insomma. Allora, io ringrazio Mario Secchi per la pazienza, direttore responsabile del quotidiano Il Tempo. Buongiorno Secchi. Allora, ci sono vari ascoltatori che ci hanno scritto alla 349-238-6666, moltissimi, da chi come Andrea Cozzi parla di un tradimento da parte dei vecchi partiti, a chi come Bruno dice di non confondere la politica con la partitocrazia, a chi come Roberto parla di personaggi scarsi, cioè personaggi politici scarsi, un livello un po' basso della politica. Questo è il vostro racconto ed è il nostro racconto sulla crisi del Popolo Libertà e del Partito Democratico. A domani, naturalmente, alla stessa ora, vi ricordo il nostro gruppo e la nostra pagina che trovate su Facebook, Italia in Controluce Radio 24, e poi abbiamo la mail controluce@radio24.it. Domani 13:30 Radio 24.